Vangelo di San Luca, capitolo dodicesimo. Intanto, essendosi la moltitudine radunata a migliaia così da calpestarsi gli uni gli altri, Gesù cominciò prima di tutto a dire ai suoi discepoli: «Guardatevi dal lievito dei farisei, che è ipocrisia. Ma non v'è niente di coperto che non abbia ad essere scoperto, né di occulto che non abbia ad essere conosciuto. Perciò, tutto quello che avete detto nelle tenebre sarà udito nella luce, e quel che avete detto all'orecchio nelle stanze interne sarà proclamato sui tetti. Ma a voi che siete miei amici, io dico, non temiate coloro che uccidono il corpo e che dopo ciò non possono far nulla di più. Ma io vi mostrerò chi dovete temere. Temete colui che, dopo aver ucciso, ha potestà di gettare nella Geenna. Sì, vi dico, temete lui. 5 passeri non si vendono per 2 soldi, eppure non uno d'essi è dimenticato dinanzi a Dio. Anzi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete, dunque, voi siete da più di molti passeri. Or io vi dico, chiunque mi avrà riconosciuto davanti agli uomini, anche il figliuol dell'uomo riconoscerà lui davanti agli angeli di Dio. Ma chi mi avrà rinnegato davanti agli uomini, sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio. E da chiunque avrà parlato contro il figliuolo dell'uomo sarà perdonato, ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato. Quando poi vi condurranno davanti alle sinagoghe, ai magistrati e alle autorità, non state in ansietà del come o del che avrete a rispondere a vostra difesa o di quel che avrete a dire, perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quell'ora stessa quel che dovrete dire. Or uno della folla gli disse: «Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità». Ma Gesù gli rispose: «O uomo, chi m'ha costituito su voi giudice o spartitore?» Poi disse loro: «Badate a guardarvi da ogni avarizia, perché non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede che egli ha la sua vita». E disse loro questa parabola: «La campagna d'un certo uomo ricco fruttò copiosamente, ed egli ragionava così fra sé medesimo: che farò, poiché non ho dover riporre i miei raccolti? E disse: questo farò, demolirò i miei granai e ne fabbricherò dei più vasti, e vi raccoglierò tutto il mio grano e i miei beni. E dirò all'anima mia: anima, tu hai molti beni, riposati per molti anni, riposati, mangia, bevi, godi. Ma Dio gli disse: stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata, e quel che hai preparato, di chi sarà? Così è di chi tesoreggia per sé, non è ricco in vista di Dio. Poi disse ai suoi discepoli: perciò vi dico, non siate con ansietà solleciti per la vita vostra di quel che mangerete, né per il corpo di che vi vestirete, poiché la vita è più del nutrimento e il corpo più del vestito. Considerate i corvi: non seminano, non mietano, non hanno dispensa né granaio, eppure Dio li nutrisce. Di quanto siete voi da più degli uccelli? E chi di voi può con la sua sollecitudine aggiungere la sua statura pure un cubito? Se dunque non potete far nemmeno ciò che è minimo, perché siete in ansiosa sollecitudine del rimanente? Considerate i gigli: non crescano, non faticano, non filano, eppure io vi dico che Salomone stesso con tutta la sua gloria non fu vestito come uno di loro. Or se Dio riveste così l'erba che oggi è nel campo e domani è gettata nel forno, quanto più vestirà voi, o gente di poca fede? Anche voi non cercate che mangerete, che berrete, e non siate in sospeso, poiché tutte queste cose sono le genti del mondo che le ricercano. Ma il Padre vostro sa che ne avete bisogno. Cercate piuttosto il suo regno, e queste cose vi saranno sopraggiunte. Non temere, o piccol gregge, poiché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. Vedete, voi dovete vendere i vostri beni, e fatene l'elemosina. Fatevi delle borse che non invecchiano, non un tesoro che non venga meno nei cieli, ove il ladro non s'accosta e tignuola non guasta. Poiché dov'è il vostro tesoro, quivi sarà anche il vostro cuore. I vostri fianchi siano cinti e le vostre lampade accese. E voi siete simili a quelli che aspettano il loro padrone quando tornerà dalle nozze per aprirgli la porta, appena giungerà e picchierà. Beati quei servitori che il padrone arrivando troverà vigilanti. In verità io vi dico che egli si cingerà, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se giungerà alla seconda o alla terza vigilia e li troverà così, beati loro. Or sappiate questo, che se il padrone di casa sapesse a che ora verrà il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe sconficcar la casa. Anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il figliuolo dell'uomo verrà. E Pietro disse, «Signore, questa parabola la dici tu per noi o anche per tutti?» E il Signore rispose, «E quale mai l'economo fedele ha veduto che il padrone costituirà sui suoi domestici per dar loro a suo tempo la loro misura di viveri? Beato quel servitore che il padrone al suo arrivo troverà facendo così. In verità io vi dico che lo costituirà su tutti i suoi beni. Ma se quel servitore dice in cuor suo, il mio padrone mette in dugio a venire e comincia a battere i servi e le serve e a mangiare e a bere e ad ubriacarsi, il padrone di quel servitore verrà nel giorno che non se l'aspetta e nell'ora che non sa e lo farà lacerare a colpi di flagello e gli assegnerà la sorte degli infedeli. Or quel servitore che ha conosciuto la volontà del suo padrone e non ha preparato né fatto nulla per compier la volontà di lui sarà battuto di molti colpi. Ma colui che non l'ha conosciuta e ha fatto cose degne di castigo, sarà battuto di pochi colpi. E a chi molto è stato dato, molto sarà ridomandato, e a chi molto è stato affidato, tanto più si richiederà. Io sono venuto a gettare un fuoco sulla terra, e chi mi resta a desiderare se già è acceso? Ma vi è un battesimo del quale ho da essere battezzato, e come sono angustiato finché non sia compiuto. Pensate voi che io sia venuto a metter pace in terra? No, vi dico, ma piuttosto divisione, perché da ora innanzi, se vi sono 5 persone in una casa, saranno divise 3 contro 2 e 2 contro 3. Saranno divisi il padre contro il figliuolo e il figliuolo contro il padre. La madre contro la figliuola e la figliuola contro la madre, la suocera contro la nuora e la nuora contro la suocera. Diceva poi ancora alle turbe, «Quando vedete una nuvola a venir su da ponente, voi dite subito, viene la pioggia, e così succede. E quando sentite soffiare lo scirocco dite, farà caldo, e così avviene. Ipocriti, ben sapete discernere l'aspetto della terra e del cielo, e come mai non sapete discernere questo tempo? E perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto? Quando vai col tuo avversario davanti al magistrato, fa di tutto mentre sei per via per liberarti da lui, che talora ei non ti tragga dinanzi al giudice e il giudice ti dia in mano dell'esecutore giudiziario e l'esecutore ti cacci in prigione. Io ti dico che non uscirai di là finché tu non abbia pagato fino all'ultimo spicciolo».